as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci di nuovo qui a Il Pane Rose. Allora, è un po' che non ci sentiamo, come al solito non riesco a essere sempre costante con le puntate. Questa che vi sto per presentare è una puntata molto, ma molto, molto particolare. Ci ho pensato su se darla, non darla, poi alla fine l'ho sistemata un po'. Ma ho detto no, questa qua c'è un sacco di cose interessanti che interessano i lavoratori dell'Emilia Romagna. Perché fondamentalmente prima delle elezioni sono stato invitato come amico e rappresentante anche del sindacato ad un'iniziativa elettorale. Non faccio pubblicità di chi era e chi non era, ma poi nelle interviste si capisce dove ero lì. Un'iniziativa elettorale in cui praticamente Colla, l'assessore alla politica di sviluppo e al lavoro, Colla incontra insieme ai candidati chiaramente che avevano organizzato questa iniziativa elettorale gli imprenditori di questo territorio della bassa bolognese, e lui lì parla, secondo me, dicendo delle cose anche giuste, corrette, ma che spesso non sentiamo raccontare in televisione. Poi ne parleremo nelle conclusioni. Voi ascoltatevi questa puntata. Adesso un pezzo bellissimo, Lupupa, che da me veramente sempre, siamo sempre a altri livelli adesso, al Pane de Rosa a livello musicale. Ascoltatevi questa canzone, poi ascoltatevi l'intervista di Colla, ascoltatelo bene perché lui dice un sacco di cose importanti. Che parla a questi imprenditori e gli dice secondo lui quello che stanno facendo, quello che si dovrebbe fare, soprattutto, è quello che purtroppo non accade. Ecco, sentiamo dopo per le conclusioni. C'è un movimento punk nella foresta, gli alberi con i capelli verdi sulla testa. E le galline con le creste vengono malviste dalla guardia di finanza, che non si accorge della gazza ladra e del crimine che avanza. E cantano in mutande i cori di cicale, che lasciano i vestiti sulle reti del mare. Le grandi distorsioni, le sperimentazioni, grilli sintetizzatori. La musica elettronica nasce dai calabroni. C'è un movimento punk nella foresta, di alberi con i capelli sempre verdi sulla testa. C'è un movimento punk ai limiti del bosco, con Lupupa che canta allegra le sue origini di zebra e se ne frega di chi la vede come un male, di chi la vede come un ponte tra il mondo dei vivi e il mondo delle ombre. Grazie, mi ha fatto piacere dialogare con voi, poi andiamo in feedback libero. Ho chiesto la residenza medicina per votare lui. Tanto così sgombriamo il campo degli equivoci. Provo dirvi come stiamo operando noi come regione, anche dalle valutazioni che stiamo facendo, seguendo rispetto all'impatto che ha uno scenario nella nostra regione, come su un'area industriale, come in un piccolo comune, come in un grande, anche perché l'Emilia Romagna sta nel mondo, non è. Abbiamo bisogno di stare in quel mondo, avere dei riferimenti precisi. Uno dei riferimenti precisi per quanto ci riguarda sono le migliori esperienze europee. Dobbiamo stare dentro quella dinamica. Attenzione, io non mi alzo mai dal tavolo europeo, so che ci sono da fare diverse critiche, ma non alziamoci da lì per l'amor di Dio, perché diventiamo un puntino nel mondo, tutte quelle operazioni che pensano di essere padroni a casa loro, guardate che c'è qualcun altro che poi ci presenta il conto, quindi stiamo in una dimensione di un livello di qualità, anzi io vorrei un'Europa più forte, non più debole, ma questo vuol dire lo lasciamo alle dinamiche. Anche voi girate il mondo e capite lo scontro che è in atto, tecnologico, di poteri, di dinamiche, e vi posso dire tre grandi fattori che siete imprenditori, professionisti, che incrociate tutti i giorni. Io penso che sia in atto una crisi geopolitica molto forte, che ha un impatto anche sulle nostre imprese, quelle maledette guerre, non è vero che non sta succedendo niente, stanno succedendo tante cose, oltre che vedere quelle foto che strappano il cuore, però la guerra non ha mai portato, devo dire, solo per alcuni cresce l'economia, ma per altri ovviamente crea dei grossi problemi, alcuni mercati che si chiudono, smetti l'interconnessione con alcuni mercati, hai paura, devi ritornare, c'è un reshoring anche molto forte, quindi alcune lavorazioni stanno rientrando e quelle lavorazioni che stanno rientrando dobbiamo essere capaci di prenderle e posizionarle, perché altrimenti non è che si fermano, vanno dove hanno le condizioni migliori. E guardando lo scenario attuale, guardate che sull'export l'America è diventato il primo mercato di export dell'Emilia Romagna, prima era Germania e Francia, adesso l'America sta andando a essere il primo mercato, quindi lì facciamo l'80% del nostro export, quindi Europa e America è diventato il mercato domestico, io lo chiamo, o siamo lì o andiamo in sofferenza. E però attenzione, l'ho detto anche al ministro Urso in un incontro di dinamiche, attenzione che c'è un reshoring di entrata, ma c'è un reshoring anche di uscita, perché se in America l'energia costa ancora come il 2019, ti danno quegli investimenti, se fai però l'impresa là, attenzione che poi c'è un reshoring di entrata e anche un reshoring di uscita, quindi queste dinamiche è bene conoscerle, perché altrimenti anche i vostri competitor possono avere operazioni, vuol dire, di grande vantaggio, e quindi noi dobbiamo avere un'idea di politica industriale, cosa che in questo paese è un po' difficile, almeno facciamo la politica delle filiere, quella possiamo giocare una partita anche noi, ma in quel tratto geopolitico noi ci siamo posizionati anche su altri due livelli. Uno, è inutile negarlo, c'è una crisi ambientale, il tema della sostenibilità lo dobbiamo affrontare, guardate che chi rimuove quel tema fa un errore, vale per un ricercatore, per un'università, per un'impresa, per noi, rimuovere quel tasto faremo un errore incredibile, anche perché anche lì ci sono dinamiche di investimento incredibile che stanno spostando gli asset. E poi la terza crisi, abbiamo una crisi demografica senza precedenti, un bel problema. E quindi com'è che abbiamo guardato noi per far fronte al nostro sistema delle imprese? Vedete, in Emilia Romagna abbiamo 400.000 imprese, più di 2 milioni di occupati su 4 milioni e 435.000 abitanti, non c'è nessuno che ha un livello così dal punto di vista di manifatture splendide, che vuol dire facciamo produzioni incredibili, produzioni di nicchia che nessuno sa fare, che mettiamo nel mondo, come l'Emilia Romagna, produzioni di nicchia di grande qualità. Se uno guarda questa regione si accorge, bene, basta saperla ascoltare, guardare cosa c'è, una qualità di questa regione, che c'è l'orgoglio di far bene le cose. Vale per l'imprenditore, vale per i collaboratori, vale per un professionista, teniamoci, bisogna, girate il mondo anche voi, questo orgoglio non lo trovate né in America né in Germania, questi qua, vuol dire, li fa lei, è diventata leader nel mondo. Vi do un dato, Nvidia ha 11.000 dipendenti e quotata a Wall Street 2.800 miliardi. Noi li facciamo di prodotto interno lordo, ma li facciamo con 23 milioni di occupati. Queste sono le bestie. Quindi ho detto a Bonaccini, guarda che quelli non è che vogliono prendere solo un ufficio al Tecnopolo, se non stiamo attenti ti comprano anche l'Emilia Romagna. Quindi stiamo attenti a come governiamo questi soggetti, ovviamente li dobbiamo avere per fare alleanze con loro, ma la bocca di fuoco dei soggetti che sono in campo, che arrivano a casa nostra, è questa gente qui. E quindi dobbiamo fare attenzione per la dimensione di questo cambiamento, e dire sostenibilità ovviamente vuol dire che poi adesso non so di che settore siete, ma ditemi in che settore siete, vale per tutti. Prendo quello che ovviamente va per la maggiore, che anche Bonaccini la chiama la Motor Valley, l'automotive, e si fa presto a dire cambiamento lì. Un motore scoppia, un carburatore, un cambio. Un motore elettrico, un inverter, una batteria. Un motore idrogeno, un'elettrolisi. Io so ora per allora che devo star dentro quel cambiamento. Mi devo tenere il tradizionale, ma star dentro anche questo cambiamento. Sono investimenti incredibili di processo, di prodotto, di infrastruttura, e con un problema, che se non portiamo le competenze in quella direzione, lì si gioca la partita del nostro futuro. Chi avrà le teste fa la differenza della sua impresa. Le teste sono prima del manufatto. Se avremo teste a tutti i livelli, alte, intermedie, basse, braccia, e a demografia piatta, permettetemi, un grande paese manifatturiero che non ha materie prime, a demografia piatta prima o poi ci presenterà il conto. La natalità non è di destra e di sinistra, è la cifra del nostro futuro. La politica non si è mai occupata né di natalità né di demografia. E non è vero che non si poteva fare niente. In Francia, dove hanno fatto operazioni anche guardando anche molto più al femminile, il ruolo della donna non solo nel lavoro ma nella sua autonomia nella società finalizzata al lavoro, hanno indicatori molto più alti dei nostri della natalità. Ma a demografia piatta cosa sta avvenendo? Che se noi siamo a 23 milioni di pensioni, 23 milioni e 600 mila di occupati, e voi quando chiedete le competenze non le trovate, se io non allargo la base della gente che lavora e della gente dell'impresa che crea valore aggiunto, non ci regge più il sistema di welfare. E non è che se non regge il sistema di welfare regga le imprese, perché senza il welfare non regga neanche l'impresa. Perché se io non ho sanità, se non ho tenuta sociale, non è che l'impresa la facciamo nel deserto, lo sapete anche voi. Quindi questa discussione ha questa portata, e dire demografia ci dobbiamo dire alcune verità. Siccome la natalità non è un colpo di frusta, allora chi vincerà nei sistemi democratici produttivi, chi sarà in grado di integrare? Sottolineate questa frase, chi sarà in grado di integrare farà la differenza, che non sono i barconi. Cosa vuoi mai, quella povera gente lì, allungheremo la mano, ma non è l'integrazione in bastoni. E dobbiamo smettere di discutere tra buonismo e militarismo i temi dell'integrazione. Non la regge più. La demografia piatta, nemmeno puoi fare i sistemi di integrazione con un click day, oppure che siamo ancora lì a discutere che se un ragazzo straniero dalle elementari alle medie e non ha il diritto della cittadinanza, e quindi voi siete ancora lì con i permessi a capire se lo posso mettere dentro l'impresa, ma non reggono più questi sistemi. Sono andati in Jugoslavia, sapete cosa c'è in Jugoslavia? Che i tedeschi, francesi e austriaci stanno facendo le scuole tecniche in Jugoslavia, in Albania, e stanno facendo imparare loro la lingua là, perché gli dicono guarda che poi c'è già il posto di lavoro là, poi può anche tornare indietro, ma intanto se li prendono su, formati, pronti per entrare nel loro sistema produttivo. Perché non mi direte che la Merkel, quando ha fatto entrare 750.000 siriani, era solo cordone umanitario? Non scherziamo. Donne, bambini, mettevi in una baracca dignitosa, impara la lingua, questa è la sanità, quella è l'acciaieria, quella è l'edilizia, quella è la chimica, perché anche là gli autoctoni non andavano, ne ha messi a lavorare 600.000, perché sapeva che non gli reggeva il suo modello economico. Attenzione a questa discussione. Quindi chi pensa di fare quel sovranismo casereccio senza pensare che i temi dell'integrazione sarà una delle condizioni per far reggere i nostri sistemi, certo che c'è un problema anche di competenza, ma anche di quantità, perché io non ho problemi in Emilia Romagna di disoccupazione, siamo al 4,5, non c'è un problema di disoccupazione, c'è un problema di quantità e di domanda offerta del come incrocio le competenze. E non a caso stiamo facendo il più grande investimento nella formazione, mai visto un investimento così, non sono abituato a dire milioni, però questo ve lo dico, 270 milioni di euro all'anno noi mettiamo nei sistemi della formazione, a partire da istruzione e formazione professionale, che ci aiuta moltissimo. Vi invito, ad andare a visitare un ente di istruzione e formazione professionale, andate a Castel di Briti, andate a Forlì, dove volete, vedete 25 nazionalità, che fanno insegnare la falegnameria, la meccanica e quant'altro, vanno a lavorare tutti, e lì c'è l'integrazione, perché l'integrazione la fai nei sistemi di istruzione, poi voi nell'impresa fate la finitura, ma senza la possibilità di dare l'autonomia al soggetto nei sistemi dell'istruzione, anche voi non incrociate quel soggetto. Quindi attenzione al rafforzamento dei sistemi di istruzione, quindi istruzione e formazione professionale, abbiamo triplicato ITS, più FTS, più lauree professionalizzanti, dobbiamo qualificare i laboratori, dobbiamo avere più scuole tecniche industriali, se dovessi spendere dei soldi sul PNR qualificherei le scuole industriali, le scuole tecniche professionali che ne abbiamo bisogno come il pane, perché se non fai quell'istruzione lì poi fate fatica ad incrociare domanda offerta. Ditemi se c'è un professore che insegna la digitalizzazione, non li abbiamo, non ce n'è uno, trovate qualche che ha passione, ma questa è l'era digitale, non c'è un professore che insegna la digitalizzazione, allora la novità. Noi stiamo facendo operazioni di intreccio, ecco, in un'area industriale come questa, bene, il trasporto pubblico, e poi ci guardiamo, perché il trasporto pubblico è importante. Ma vedete, in queste aree industriali, pensate anche di fare, adesso le chiamano accademie, no? Luoghi dove si può fare formazione a disposizione delle aree industriali, perché allora prendiamo le scuole pubbliche, insieme ai vostri manager, insieme alle vostre competenze, facciamo una formazione dedicata ai bisogni che avete. E in quei luoghi, che devono essere decenti, dignitosi, ovviamente devono essere in grado di prendere le strutture pubbliche e facciamo, voglio dire, formazione anche ai docenti e facciamo un'operazione di incrocio tra i bisogni che ha un'impresa e i bisogni che ha una scuola, sapendo che guai che mi tocca la scuola pubblica di Stato nazionale, ma la scuola pubblica di Stato nazionale è forte quando è in rete col suo territorio, altrimenti diventa autoreferenziale. Si chiude, noi chiediamo delle cose che non arriva, se invece le mettiamo in rete col nostro territorio, che iniziamo a farli visitare le imprese che non le conoscono più, sia ovviamente i docenti ma anche i ragazzi, se non gli fai vedere cos'è un'impresa, un bel problema. Ecco, questa operazione siamo in grado di finanziarvele tutte, perché lì si gioca la partita. Chiudo, abbiamo fatto una legge per attrarre e trattenere i talenti, sta avvenendo nel nostro paese, che abbiamo 120.000, 130.000 ragazzi che vanno di là della frontiera. Smettiamo di dire che vanno di là a fare i camerieri, con tutto il rispetto, vanno di là le figure forti, vanno di là i laureati, vanno di là e non tornano più. E quindi il più grande investimento pubblico dall'elementare all'università lo consegniamo di là, un capolavoro, fa competizione anche su di noi. E vanno di là, ci sono tanti motivi del perché vanno di là, questo sarebbe solo argomento di discussione tra di noi, ma per fare quella legge, che per noi è un fatto strutturale, identitario, votata da tutti in assemblea, da tutte le forze politiche, io avevo per compito la presentazione, discussione bellissima, ci siamo preparati nel fare quella legge con ricerca del Cattaneo su demografia e lavoro, bellissima la ricerca pubblica. Vi do il dato del 2023. Nel 2023 in questa regione abbiamo avuto 3.500 ragazze e ragazze, molte laureate, che sono andati dalla frontiera. Com'è che ha retto la demografia in questa regione? Siamo più alti rispetto agli altri. Per tre motivi. Uno, perché abbiamo università che si stanno internazionalizzando, sono in grado di attrarre. Due, perché abbiamo imprese di reputazione che sono in grado di attrarre. Tre, perché nel 2023 abbiamo avuto 8.000 ragazzi dalla regione del sud che si sono fermati qui. Per fortuna si fermano qui, altrimenti andavano di là. E 7.500 ragazzi dalle regioni, anche da tutto il mondo, che si sono fermati qui. Se noi non avessimo quelle 15.000 persone, noi parleremmo di un'altra Emilia-Romagna. Insieme ai nostri ragazzi, ci mancherebbe, parleremmo di un'altra Emilia-Romagna. Ma guardate che è un fatto strutturale, non è solo del 2023. Poi può essere più o meno. Ma se andate nel processo produttivo della Ferrari, sentite parlare campano, siciliano, quello che volete. Questo è un altro problema sul Sud Italia, ovviamente, perché se un problema qua non torna a casa, poi... Quello è un problema dell'Unità d'Italia. Continua a aprire una forbice che... Se io non li fermo qua, mi vanno di là. No, certo. E quindi, siccome io non posso risolvere come Emilio Romagna tutto il problema del Sud, almeno risolvo il problema del lavoro dei ragazzi del Sud, perché sennò non ce la faccio. Questo è il punto... E in questa operazione perché? Perché nell'anno scolastico, quindi qualcuno anche a medicina, Noi 23-24, nel primo anno scolastico elementare, abbiamo 5.000 ragazzi in meno. 5.000. Qui. Io lo so cosa vuol dire avere 5.000 ragazzi in meno. Vuol dire meno imprese, meno lavoro, meno dirigenti, meno ricercatori, meno sindaci, capaci. E quindi il tema qual è? Che il tema della demografia diventa la cifra del nostro futuro. E lì, fare quell'operazione, lì dobbiamo dire delle verità. Non è semplice, perché se la scarichiamo sulle persone più povere non la reggiamo. E quindi, per attrarre e trattenere, hai bisogno di darti anche una nuova idea. Hai bisogno, abbiamo un problema a casa, grosso come una casa, perché non è sufficiente farli solo lavorare. Che è quello che ci chiedono le imprese. Che è quello che ci chiedono le imprese, perché se tu non hai dei prezzi dell'affitto a cose normali, non reggi con lo stipendio. 700 euro un posto letto, bravo. E abbiamo appena trovato noi la casa, un senegalese. Ecco, è tutto così. Siamo in diretta. Perfetto, ma è tutto così. Mi dovrebbe fare un Fanfani 5.0. Sai, 30 anni che mi parli. Al posto di fare, vuol dire, dei bonus, basta questa politica dei bonus. Noi dobbiamo fare la rigenerazione urbana per creare ovviamente case, recuperare aree, fare rigenerazione e creare le aree, bonificare, fare delle aree. Vale per l'impresa, vale per i bisogni che abbiamo. E poi basta villetta schiera, dobbiamo andare su, dobbiamo andare in alto perché non abbiamo più di terra. Ecco, dobbiamo darci una nuova idea del modello di sviluppo. Noi lì siamo disponibili a fare investimenti come regione dentro questa strategia. E devo dire che un po' sta anche funzionando, perché far ritornare dei ragazzi è anche possibile. Abbiamo fatto i bandi per avere il centro in ogni città sull'attrattività di Lenti, oggi l'università sullo sourcing, e adesso lo faremo anche per le imprese. Se avete progetti per far rientrare talenti, ve li finanziamo. Questa è la cifra della nuova discussione, e in quella legge abbiamo anche detto: attenzione, che per far rientrare quelle persone c'è un nuovo bilanciamento sui giovani, non hanno più la cultura che avevamo noi. Il lavoro era tutto, vuol dire, concentrati lì, avanti in avanti tutto, no? Avete fatto l'Italia con questa cultura. Attenzione, che per attrarre i giovani ogni anno è un bilanciamento tra qualità della vita e qualità del lavoro. Quindi vi chiedono smart working, vi chiedono qual è la mia prospettiva, vi chiedono tanta roba. Attenzione, che se vogliamo trattenerli dobbiamo decidere anche il come facciamo l'approccio. Prima era l'imprenditore che diceva lui ci penso, stavolta le figure forti sono loro, ci dicono ci penso. Quindi è bene che ci diciamo alcune verità, perché noi finanziamo, ma dobbiamo cambiare anche modello per riuscire a trarre e trattenere i nostri talenti. E trattenerli fin dall'inizio vuol dire incrociare le imprese e dirgli: guarda che se vai a lavorare lì trovi un posto di lavoro dignitoso, perché devi andare lì? Ma per fargli questa domanda gli devi creare il pacchetto, gli devi dire: guarda che c'è abitazione, c'è lavoro dignitoso, ci sono le condizioni, c'è bellezza in questi territori, c'è cultura, sulla simpatia siamo sempre in Champions League, quindi non si capisce perché dobbiamo lasciare andare di là i nostri ragazzi. Questa è la traiettoria che stiamo mettendo in campo come regione. Una grande opera di importanza storica che questa nazione salverà. E per la grande opera tutti i sudditi in città grideranno viva sua maestà. Una grande opera, macchina economica, che i massoni rifocillerà. E la grande opera, stupido chi sciopera, quante bastonate prenderà. Grandi opere che iniziano, ma che non finiranno. Yeah. dire che non si chiamano Rizla. Edifico è scasso, va magro e non collasso. Lo stemma della crew è una squadra col compasso. Parliamo in codice, talmente in codice che a volte nemmeno tra noi ci capiamo un claxo. Palazzi in aria fieri, geometri ingegneri e novizi iniziati con atti osceni. Lì si traveste da Vadi Susa e in una stanza chiusa se ne abusa penetrandoli coi treni. Non abbiamo premi per gare di salto in alto, ma premiamo per vincere le gare d'appalto. Siamo balene in un mare di tanto planto, noi quelli dritti, voi fritti come vanto. I canottieri se la canottano, finché noi gliela suoneremo. Allora, avete ascoltato Caparezza, la grande opera, non lo so perché, però mi è venuto in mente di mettere questo pezzo musicale stupendo. Ora, avete sentito Colla? Io invito tutti quelli che non abbiano ascoltato la puntata di andare sul sito, sulla pagina Facebook Il Pane Rose e di andarsi ad ascoltare il podcast, perché veramente c'è un sacco di cose importanti, a partire ad esempio sulla guerra. Una condanna netta della guerra e va sul piano economico, cioè spiega chiaramente come la guerra sta danneggiando l'economia in questo momento. E ha anche spiegato quello che accadrà a Bologna dell'arrivo di questi nuovi imprenditori che sono i leader della nuova tecnologia, e affronta una questione che spesso esponenti del PD non osano affrontare, la questione della natalità. Insomma, lui dice chiaramente che senza materie prime l'Italia ha bisogno di teste. E soprattutto perché glielo chiedono questi imprenditori che arrivano qui, che investiranno sulle nuove tecnologie. E parla anche del ruolo della donna, dicendo che si poteva fare molto di più per far sì che le donne potessero avere dei figli. La natalità è devastante. E poi dice, siccome non è che possiamo obbligare le donne a procreare, e spiega anche come senza occupati il welfare verrà distrutto, parla del fatto che serve un'integrazione e non parla, e lui dice chiaramente, le persone che arrivano con i barconi, certo gli daremo una mano, ma noi ci servono persone qualificate, persone formate, e spiega anche quello che sta facendo la regione, quello di cercare in tutti i modi di attirare cervelli, di far rientrare i cervelli che vanno via. Sono numeri, ha parlato di numeri incredibili di cervelli che vanno via anche dall'Emilia Romagna, e dice chiaramente che l'Emilia Romagna si riesce a sostenere grazie al fatto che moltissimi cervelli dal sud vengono al nord, impoverendo il sud. Infatti il candidato sindaco dice chiaramente, ma così mettiamo nei casini anche il sud? Ma lui dice, cosa dobbiamo fare? A me non vanno all'estero, perché altrimenti andrebbero all'estero. Lui li ferma, li vuole fermare. E soprattutto grazie anche a tantissime teste che arrivano dall'estero. L'Università di Bologna sta attirando tantissimi giovani dall'estero, ma non solo. E spiega come è necessario anche una cosa che noi del Penderosi siamo convinti, è il fatto che non basta solo il lavoro. In Emilia Romagna il lavoro c'è, c'è una disoccupazione del 4,5%, ne parla pure lui, ma il problema è le condizioni. Io ho dei colleghi che continuamente con un lavoro a tempo indeterminato se ne tornano a casa loro. Ogni mese qualcuno torna nel sud a tornare a essere disoccupato, perché dice meglio disoccupato che lavoratore strapovero, in cui io lavoro tutto il giorno e non riesco a vivere, perché non riesco a pagare l'affitto, non riesco a mangiare. Questo è purtroppo il problema che abbiamo oggi a Bologna, nel nord Italia e anche in altre zone d'Italia. E lui dice come chiaramente non basta dare il lavoro, ci sono le politiche sociali che mancano. Ora, l'intervista è veramente da ascoltare, è fondamentale perché affronta dei temi che spesso non si sentono in televisione, non si leggono sui giornali. Lui parla agli imprenditori ed è molto franco, molto onesto, e bisogna riconoscere che Colla è una persona che non le manda a dire. Ecco. Spero che vi sia piaciuta la puntata e alla prossima, sperando di riuscire a fare delle puntate legate ai nuovi contratti Ducati e Lamborghini, speriamo di riuscirci. Ecco. Ciao a tutti.